Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma arrendersi o perire. Radio Liberazione. La riconciliazione è difficile. Dalla guerra a una pace sostenibile. Questo è un volumetto molto denso, molto bello e molto interessante, scritto da Alejandro Bendagna e Charles Villavicencio, che si sono occupati di ragionare attorno appunto al concetto di riconciliazione da alcuni punti di vista privilegiati, che sono quelli che li hanno visti coinvolti in alcuni dei processi di riconciliazione appunto più importanti degli ultimi decenni, dal Sudafrica alla Colombia, passando per tutta una serie di altri paesi che hanno scelto non la via giudiziale, non la via dei processi, ma appunto quella difficile strada della transizione e della riconciliazione. È stato un concetto che è stato molto di moda in passato e crediamo che riproporre alcune delle loro riflessioni qui possa in realtà togliere da questa parola appunto l'aspetto della moda per far emergere quella che è una riflessione cruciale rispetto alla società. La riconciliazione non è un'alternativa banale alla giustizia e non è la bandiera di un pacifismo astratto, ma come sentiremo ha delle radici e dei confini estremamente significativi rispetto a un'idea di società e di comunità di un certo tipo. L'emergere di una società responsabile e solidale, dedita all'affermazione dei diritti umani, presuppone che tutti gli individui che hanno sostenuto il sistema o che semplicemente gli hanno consentito di funzionare, si assumano personalmente le proprie responsabilità. Identificare le responsabilità morali che sottendono le estese violazioni dei diritti umani è necessario, in effetti, non tanto in relazione al passato, quanto soprattutto in prospettiva futura. Riconoscere le molteplici sfaccettature della spirale di connessione che connota le società moderne è un presupposto indispensabile perché sorga una nuova società. Karl Jaspers, in un famoso saggio scritto poco dopo l'istituzione del Tribunale di Norimberga, parla del bisogno di riconoscere diversi livelli di colpa come fondamento per quello che egli chiama un mondo nuovo che è ancora da edificare. Se la catena del male non viene spezzata, egli scrive, anche i vincitori si verranno a trovare in una situazione uguale alla nostra, e con loro però l'intera umanità. Tale censura conduce oltre il mero pessimismo antropologico verso una cittadinanza responsabile. La risposta più bonaria è quella che richiama la storica tendenza della maggior parte degli uomini a seguire il gregge, un'inclinazione a sottomettersi senza pensare piuttosto che a render conto secondo coscienza dei propri comportamenti. Se vogliamo che il futuro sia diverso dal passato, è questa inclinazione che dovremmo cambiare. Ciò ci ricorda che ogni indagine penetrante sul passato non può ridursi a una specie di caccia alle streghe. Indagare rigorosamente il passato implica costruire dei principi rispetto ai quali sia i passati governi che quelli a venire dovranno essere giudicati, facendo in modo che in ciascuna nuova società sia assicurato uno spazio che renda possibile e valorizzi l'azione riflessiva. La forma più elevata di cittadinanza e l'antidoto più potente contro le sistematiche violazioni dei diritti umani è legato a quello che Habermas chiama la nostra concezione di libertà, che è a sua volta connessa con il modo in cui noi concepiamo noi stessi come persone e con quanto pretendiamo da noi stessi come attori politici. La riconciliazione deve dunque, per definizione, spingersi oltre il ghetto angusto di un singolo credo, di una cultura o ideologia. Deve poter essere raggiunta da ogni persona, sia come concetto, sia come realtà sostanziale. Per molto tempo è stata ritenuta un concetto essenzialmente religioso, ma ora, perché possa diventare realmente universale, deve acquistare anche un significato laico. Una definizione semplicistica, ma anche una definizione troppo complessa di riconciliazione, che non sia in grado di alimentare la creatività e il dischiudere possibilità di vita inedite, non riuscirebbe a dare la forza di andare avanti a persone che soffrono e a gente ferita. Le guerre ideologiche che si combattono sulla definizione di cosa sia riconciliazione, di quali siano le sue condizioni, sono una prova sufficiente, salvo che per gli zeloti più ottusi, che definizioni e formule precise in questa materia sono più un male che un bene. Lo scopo della riconciliazione è quello di trascendere un impasse, di sciogliere un nodo che può essere esplosivo. La riconciliazione si sottrae a ogni preciso sistema di regole. In effetti essa è più di una teoria, non ci sono istruzioni per l'uso. Essa comprende intuizione, creatività, ma anche rischio e voglia di esplorare e di ricominciare da capo. Implica una specie di stato di grazia. È una festa dello spirito umano. La riconciliazione ha a che fare con l'idea di rendere possibile l'impossibile. Presa alla lettera, riconciliazione significa ritornare a uno stato di conciliazione, abbandonando presumibilmente una situazione di antagonismo. E qui sorge il primo problema: presumere che nel passato esistesse una situazione di vera amicizia e che sia necessario un ritorno. Se le cose una volta andavano così bene, perché mai il disastro? Ma soprattutto riconciliazione, anche in questo caso il termine è considerato in senso letterale, sembra escludere l'idea di un rapporto nuovo preferibile non solo alla situazione presente, ma anche a quella del passato. La nozione di riconciliazione in questa prospettiva diventa profondamente conservatrice, non dà importanza al progressivo cambiamento e alla trasformazione, ma esalta la restaurazione della situazione precedente al conflitto. La nostra preoccupazione è che la nozione di riconciliazione possa essere abusata al punto da sacrificare la doverosa ripulsa che deve esistere di fronte a ogni forma di indifferenza verso i diritti umani. La riconciliazione deve presupporre e soprattutto promuovere la difesa o la riaffermazione dell'innata dignità degli individui e dei popoli. Anche se questo può sembrare ovvio a molti, la realtà è che gli accordi di pace o le intese, spesso volute da soggetti per nulla innocenti e disinteressati, interni o esterni rispetto al conflitto, molto spesso tendono più a salvaguardare l'ingiusto equilibrio di potere esistente tra le parti, piuttosto che l'idea di eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole.